ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Nei primi giorni d'estate, Agostino e sua madre uscivano tutte le mattine sul mare in pattino. Le prime volte, la madre aveva fatto venire anche un marinaio, ma Agostino aveva mostrato per così chiari segni che la presenza dell'uomo l'annoiava, che da allora i remi furono affidati a lui. Egli remava con un piacere profondo su quel mare calmo e diafano del primo mattino, e la madre, seduta di fronte a lui, gli discorreva pienamente, lieta e serena come il mare e il cielo, proprio come se lui fosse stato un uomo e non un ragazzo di 13 anni. La madre di Agostino era una grande e bella donna, ancora nel fiore degli anni. E Agostino provava un sentimento di fierezza ogni volta che si imbarcava con lei per una di quelle gite mattutine. Gli pareva che tutti i bagnanti della spiaggia li osservassero, ammirando sua madre e invidiando lui. Convinto di avere addosso tutti gli sguardi, gli sembrava di parlare con una voce più forte del solito, di gestire in una maniera particolare, di essere avvolto da un'aria teatrale ed esemplare, come se invece che sopra ad una spiaggia si fosse trovato con la madre sopra una ribalta, sotto gli occhi attenti di centinaia di spettatori. Talvolta la madre si presentava in un costume nuovo, e lui non poteva fare a meno di notarlo ad alta voce, con desiderio segreto che altri lo udisse. Oppure lo mandava a prendere qualche oggetto nella cabina, restando ritta in piedi sulla riva, presso il pattino. Egli ubbidiva con una gioia segreta, contento di prolungare, sia pure per pochi momenti, lo spettacolo della loro partenza. Finalmente salivano sul pattino. Agostino si impadroniva dei remi e lo spingeva al largo, ma ancora a lungo restavano nel suo animo il turbamento e l'infatuazione di questa sua filiale vanità. Come si trovavano a gran distanza dalla riva, la madre diceva al figlio di fermarsi, si metteva in capo la cuffia di gomma, si toglieva i sandali e scivolava in acqua. Agostino la seguiva. Ambedue nuotavano intorno al pattino abbandonato con i remi penzolanti, parlando lietamente, con voci che suonavano alte nel silenzio del mare piatto e pieno di luce. Talvolta la madre indicava un pezzo di sughero galleggiante a qualche distanza e sfidava il figlio a raggiungerla a nuoto. Ella concedeva al figlio un metro di vantaggio, poi a grandi bracciate si slanciavano verso il sughero. Oppure gareggiavano a tuffarsi dal sedile del pattino. L'acqua liscia e pallida si squarciava sotto i loro tuffi. Agostino vedeva il corpo della madre inabissarsi, circonfuso di un verde ribollimento, e subito le si slanciava dietro, con desiderio di seguirla ovunque, anche in fondo al mare. Si gettava nella scia materna e gli pareva che anche l'acqua, così fredda e unita, serbasse la traccia del passaggio di quel corpo amato. Finito il bagno, risalivano sul pattino e la madre, guardando intorno al mare calmo e luminoso, diceva: «Com'è bello, non è vero?» Agostino non rispondeva perché sentiva che il godimento di quella bellezza del mare e del cielo egli lo doveva soprattutto all'intimità profonda in cui erano immersi i suoi rapporti con sua madre. Non ci fosse stata questa intimità, gli accadeva talvolta di pensare, che sarebbe rimasto di quella bellezza? Restavano ancora a lungo ad asciugarsi nel sole che, avvicinandosi al mezzodì, si faceva più ardente. Poi la madre si distendeva sulla traversa che univa le due navicelle del pattino e supina, i capelli nell'acqua, il viso rivolto al cielo, gli occhi chiusi, pareva assopirsi. Mentre Agostino, seduto sul banco, si guardava intorno, guardava la madre e non fiatava per timore di turbare quel sonno. Ad un tratto la madre apriva gli occhi e diceva che era un piacere nuovo stare distesa sul dorso con gli occhi chiusi, sentendo l'acqua trascorrere e ondeggiare sotto la schiena. Oppure domandava ad Agostino che le porgesse il portasigarette, o meglio che accendesse lui stesso la sigaretta e gliela desse. Tutte cose che Agostino eseguiva con compunta e trepida attenzione. Quindi la madre fumava in silenzio e Agostino se ne stava chino, voltandole le spalle, ma con la testa girata di fianco, in modo da poter vedere le nuvolette di fumo azzurro che indicavano il luogo dove la testa della madre riposava, i capelli sparsi nell'acqua. Ancora, la madre, che non sembrava mai saziarsi del sole, pregava Agostino di remare e di non voltarsi. Intanto lei si sarebbe tolta il reggipetto e avrebbe abbassato il costume sul ventre, in modo da esporre tutto il corpo alla luce solare. Agostino remava e si sentiva fiero di questa incombenza come di un rito a cui gli fosse concesso di partecipare. E non soltanto non gli veniva in mente di voltarsi, ma sentiva quel corpo, là, dietro di lui, nudo al sole, come avvolto in un mistero cui doveva la massima venerazione. Una mattina la madre si trovava sotto l'ombrellone, e Agostino, seduto sulla rena accanto a lei, aspettava che venisse la solita ora della gita in mare. Tutto a un tratto l'ombra di una persona ritta parò il sole davanti a lui. Levati gli occhi, vide un giovane bruno e adusto che tendeva la mano alla madre. Non ci fece caso, pensando ad una delle solite visite casuali, e tirandosi un po' da parte, aspettò che la conversazione fosse finita. Ma il giovane non sedette come gli era proposto, e indicando sulla riva il pattino bianco con il quale era venuto, invitò la madre per una passeggiata in mare. Agostino era sicuro che la madre avrebbe rifiutato questo, come tanti altri simili inviti precedenti. Grande fu perciò la sua sorpresa, vedendola subito accettare, cominciare senz'altro a radunare la roba, i sandali, la cuffia, la borsa, e poi levarsi in piedi. La madre aveva accolto la proposta del giovane con una semplicità affabile e spontanea, in tutto simile a quella che metteva nei rapporti con il figlio. Con la stessa semplicità e spontaneità, volgendosi ad Agostino, che era rimasto seduto e badava, a testa china, a far scorrere la rena nel pugno chiuso, ella gli disse che facesse pure il bagno da solo. Lei andava per un breve giro e sarebbe tornata tra non molto. Il giovane, intanto, come sicuro del fatto suo, già si avviava verso il pattino, e la donna, docilmente, si incamminò dietro di lui con la solita lentezza maestosa e serena. Il figlio, guardandoli, non poté fare a meno di dirsi che quella fierezza, quella vanità, quell'emozione che provava durante le loro partenze per il mare, adesso dovevano essere nell'animo di quel giovane. Vide la madre salire sul pattino e il giovane, tirando indietro il corpo e puntando i piedi contro il fondo, con poche remate vigorose, portare l'imbarcazione fuori dall'acqua bassa della riva. Il giovane remava, la madre di fronte a lui si teneva con le due mani al sedile e pareva chiacchierare. Poi il pattino gradualmente rimpicciolì. Entrò nella luce abbagliante che il sole spandeva sulla superficie del mare, e in essa lentamente si dissolse. Rimasto solo, Agostino si distese nella sedia a sdraio di sua madre e, un braccio sotto la nuca, gli occhi rivolti al cielo, assunse un atteggiamento riflessivo e indifferente. Gli pareva che, come tutti i bagnanti della spiaggia dovevano aver notato nei giorni passati le sue partenze con sua madre, così, allo stesso modo, non potesse essere loro sfuggito che quel giorno la madre l'aveva lasciato a terra per andarsene con il giovane del pattino. Per questo egli non doveva assolutamente mostrare i sentimenti di disappunto e di delusione che l'amareggiavano. Ma per quanto cercasse di darsi un'aria di compostezza e di serenità, gli sembrava ugualmente che tutti dovessero leggergli in viso l'inconsistenza e lo sforzo di questo atteggiamento. Ciò che lo offendeva di più non era tanto il fatto che la madre gli avesse preferito il giovane, quanto la felicità gioiosa, sollecita, come premeditata, con la quale aveva accettato l'invito. Era come se ella avesse deciso dentro di sé di non lasciarsi sfuggire quell'occasione e, appena si presentasse, di coglierla senza esitare. Era come se ella, durante tutti quei giorni in cui era uscita in mare con lui, si fosse sempre annoiata e non ci fosse venuta che in mancanza di compagnia migliore. Un ricordo confermava questo suo malumore. Era accaduto ad un ballo in una casa amica a cui si era recato insieme con sua madre. Con loro si trovava una sua cugina che durante i primi giri, disperata di vedersi negletta dai ballerini, aveva accettato un paio di volte di andare con lui, ragazzo dai pantaloni corti. Ma aveva ballato di mala grazia, con un viso lungo e pieno di scontento. E Agostino, sebbene assorto a sorvegliare i propri passi, si era presto accorto di questo sdegnoso e per lui poco lusinghiero stato d'animo. Tuttavia l'aveva invitata una terza volta e si era molto stupito di vederla ad un tratto sorridere e alzarsi sollecitamente, dandosi con le mani un colpo alla gonna spiegazzata. Soltanto, invece di corrergli tra le braccia, la cugina lo evitava ed andava incontro ad un giovane che, al di sopra della spalla di Agostino, le aveva rivolto un cenno d'invito. Tutta questa scena non era durata più di 5 secondi e nessuno se n'era accorto fuorché Agostino stesso. Ma egli era rimasto oltremodo umiliato e aveva avuto l'impressione che tutti avessero notato il suo smacco. Adesso, dopo la partenza di sua madre con il giovane del pattino, paragonava i due fatti e li trovava identici. Come la cugina, sua madre non aveva aspettato che l'occasione propizia per abbandonarlo. Come la cugina, con la stessa facilità premurosa, aveva accettato la prima compagnia che gli fosse capitata. E a lui, in ambedue i casi, era accaduto di ruzzolare giù da un'illusione come da una montagna, restando tutto ammaccato e dolente. La madre, quel giorno, rimase in mare un paio d'ore. Dall'ombrellone egli la vide scendere sulla riva, porgere la mano al giovane e senza fretta, la testa china sotto il sole di mezzogiorno, avviarsi verso la cabina. La spiaggia ormai era deserta e questo era una consolazione per Agostino, sempre convinto che la gente avesse gli occhi fissi sopra di loro. «Che cosa hai fatto?» gli chiese la madre con tono indifferente. «Mi sono molto divertito», incominciò Agostino, e inventò che era stato in mare anche lui con i ragazzi della cabina attigua alla loro. Ma già la madre non l'ascoltava più, correva verso la cabina per rivestirsi. Agostino decise che il giorno dopo, appena avesse visto spuntare sul mare il pattino bianco del giovane, si sarebbe allontanato con qualche pretesto, in modo da non soffrire per la seconda volta l'affronto di essere lasciato a terra. Ma il giorno dopo, appena fece il gesto di allontanarsi, si sentì richiamare da sua madre. «Vieni!» ella diceva alzandosi e radunando la roba. «Si va in mare!» Agostino, pensando che la madre avesse in mente di congedare il giovane e di restare sola con lui, la seguì. Il giovane li aspettava ritto sul pattino. La madre lo salutò e disse semplicemente: «Porto anche mio figlio». Così Agostino, assai scontento, si ritrovò seduto accanto alla madre, di fronte al giovane che remava. Agostino aveva sempre visto sua madre ad un modo, ossia dignitosa, serena, discreta. Fu assai stupito, osservando durante la gita, il cambiamento intervenuto non soltanto nei suoi modi e nei suoi discorsi, ma anche, si sarebbe detto, nella sua persona. Quasi che, addirittura, ella non fosse più stata la donna di un tempo. Erano appena usciti in mare che la madre, con una frase pungente e allusiva, per Agostino affatto scura, aveva iniziato una curiosa e serrata conversazione. Si trattava, a quel che poté capire Agostino, di un'amica del giovane, la quale aveva un altro corteggiatore, più fortunato e accetto del giovane stesso. Ma questo non fu che il pretesto. Poi il discorso continuò, insinuante, insistente, dispettoso, malizioso. Dei due la madre pareva la più aggressiva e al tempo stesso la più disarmata, mentre il giovane badava a risponderle con una calma quasi ironica, come sicuro del fatto suo. La madre pareva a momenti scontenta e addirittura adirata con il giovane, di che Agostino si rallegrava, ma subito dopo, con sua delusione, una frase lusinghiera di lei distruggeva questa prima impressione. Oppure la madre muoveva il giovane, con tono risentito, una filza di oscuri rimproveri. Ma invece di vedere il giovane offendersi, Agostino sorprendeva sul suo viso un'espressione di fatua vanità e concludeva che quei rimproveri non erano tali che in apparenza e nascondevano un senso affettuoso che lui non era in grado di afferrare. Di lui, poi, tanto la madre quanto il giovane parevano persino ignorare l'esistenza, come se non ci fosse stato. E la madre spinse questa ostentata ignoranza fino al punto da ricordare al giovane che se il giorno avanti era andata sola con lui, questo era stato da parte sua un errore che non si sarebbe più ripetuto. D'ora in poi, sempre, il figlio sarebbe stato presente. Discorso questo che Agostino ritenne offensivo. Quasi che lui non fosse stato una persona dotata di volontà indipendente, bensì un oggetto di cui si poteva disporre secondo le più capricciose convenienze. Una sola volta parve che la madre si accorgesse della sua presenza, e fu quando il giovane, lasciati ad un tratto i remi, si chinò in avanti con un viso intensamente malizioso e le disse sottovoce una breve frase che Agostino non riuscì a capire. Questa frase ebbe il potere di far sobbalzare la madre di esagerato scandalo e finto orrore. «Abbia almeno riguardo a questo innocente!» Ella rispose, indicando Agostino seduto al suo fianco. Agostino, al sentirsi chiamare innocente, fremette tutto di ripugnanza, come a vedersi gettare addosso un cencio sporco e non potere liberarsene. Come si furono alquanto allontanati dalla riva, il giovane propose alla madre di fare il bagno. Allora Agostino, che aveva tante volte ammirato la discrezione e la semplicità con cui ella si lasciava scivolare nell'acqua, non poté fare a meno di essere dolorosamente stupito dai gesti nuovi che adesso ella metteva in quell'atto antico. Il giovane si era gettato in mare ed era già rispuntato a galla che la madre stava ancora esitante ad assaggiare l'acqua con il piede, fingendo non si capiva se spavento o ritrosia. Si schermiva, protestava, ridendo e afferrandosi con le mani al sedile, finalmente si sporse con tutto un fianco e una gamba, in un atteggiamento quasi indecente, e si lasciò cadere malamente tra le braccia del compagno. I due andarono sotto insieme e insieme tornarono a galla. Agostino, rannicchiato sul sedile, vide il volto ridente della madre accanto a quello bruno e serio del giovane e gli parve che le guance si toccassero. Nell'acqua limpida si potevano vedere i due corpi dimenarsi l'uno accanto all'altro, come desiderosi di intrecciarsi, urtandosi con le gambe e con i fianchi. Agostino li guardava, guardava la spiaggia lontana e si sentiva superfluo e vergognoso. Alla vista del suo viso accigliato, la madre ebbe dall'acqua dove si dimenava, per la seconda volta nella mattina, una frase che umiliò e riempì di vergogna Agostino. «Perché stai così serio? Non vedi com'è bello qui? Dio mio, che figlio serio che ho!» Agostino non rispose e si limitò a girare altrove gli occhi.